mash. To sago sentin chin betin and a chabwa muji. Then a jampa tanshi yama baka nebi san. Machi wetu uva utele jamu belu wanyi. Machi wetu uva utele jamu belu wanyi. To sego koko tu di tu somba limpe. Bamo yu wipe la diamu ne tu sego. Tu sei coco, tu di tu somba limpe. Bamo yu wimpe la diamu ne tu seku. Tu sei coco, tu di mwaku monangana. Tu pesha nalelu, tu di mwaku seke kesha wakwe. Tu sei kuka tuende nemu shinga wakwe tupangana. Tu di tunemesha ewu di utupangana. Katuenda tupapu pela kujemu tupia. Philippe Chilomba Boko Sepela.